Investire informati. Allora, un tema delicatissimo quello che affrontiamo oggi. Bisognerà aspettare i provvedimenti attuativi per capire concretamente come si potrà chiedere quello che hanno ribattezzato un ristoro, anche parziale, sulle perdite subite sui valori delle obbligazioni subordinate emesse negli anni passati dalle vecchie Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti e Cariferrara. Di sicuro, con l'avvenuta approvazione della manovra di stabilità, c'è ora una dote ufficialmente di 100 milioni resa disponibile in un fondo di solidarietà finanziato dal Fondo Interbancario di tutela dei depositi. Questa è una notizia, appunto, come sapete, di cui si è parlato tanto in questi giorni, e poi c'è anche il lavoro che viene assegnato all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che dovrà con un collegio arbitrare stabilire a chi spettano i ristori integrali o parziali, appunto, delle perdite subite. Partiamo dunque da questo, ma anche dalle numerose proteste che hanno continuato ad animare molte piazze in queste settimane di festa, che non sono state settimane affatto felici e spensierate per migliaia di persone. La più significativa di queste iniziative è stata quella del 22 dicembre davanti alla sede della Banca d'Italia, ma spontaneamente in Toscana e nelle Marche ci sono state molte iniziative e si stanno ripetendo a più riprese. Lunedì ce n'è stata una molto importante a Jesi, di tutti i risparmiatori coinvolti nel, virgolette, crack di Banca Marche. Domani c'è un incontro molto importante a Roma che adesso vi anticiperemo, ma intanto vado a presentarvi anche gli ospiti con cui rifaremo un punto della situazione sulle conseguenze del famoso famigerato decreto salva banche del 22 novembre. Nicola Borzi, lo abbiamo già salutato, Plus 24 del Sole 24 Ore. Ciao Nicola, ben ritrovato. Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Peraltro, a proposito di obbligazioni bancarie, oggi sul Sole 24 Ore segnalo subito l'analisi che Nicola appunto consegna al quotidiano sulle obbligazioni emesse dal sistema del credito cooperativo in Italia. Ce ne sono tante in circolazione, Nicola, e anche qua sono queste obbligazioni garantite da un fondo speciale che è proprio gestito dal sistema del credito cooperativo. Come mai c'è questa analisi? Che cosa avete scoperto? Ma abbiamo voluto fare questa analisi per capire quali sono, come dire, i profili di interesse e anche eventualmente i profili di rischio per le centinaia di migliaia di sottoscrittori di bond del sistema BCC. Parliamo di oltre 4.300 titoli per un valore complessivo garantito di oltre 28 miliardi. Però questi titoli, sebbene esista questa garanzia che per il momento non è mai stata esercitata perché sono sempre stati rimborsati completamente, questi titoli sono per la maggior parte non quotati, solo uno su quattro lo è, e per la maggior parte sono illiquidi. E quindi chi se li compra deve avere la possibilità e soprattutto la volontà di tenerseli fino alla scadenza, in quasi tutti i casi. Perché se andasse adesso a richiedere al direttore di banca di disinvestire, non è detto, potrebbe accontentarti, il direttore potrebbe anche dirti no, perché contrattualmente non è prevista una... Esatto, non è obbligato nessuno a ricomprare un titolo. Se si incrocia la domanda e l'offerta, magari sì, si può riuscire a uscire da un titolo prima della scadenza. Alternativamente, ripeto, bisogna, una volta acquistato, portare pazienza e tenerlo fino alla scadenza naturale. Ho voluto sottolineare anche dell'articolo di Nicola di questa mattina, perché chiaramente la questione sollevata dal decreto salvabanche e tutte le conseguenze ha portato anche molti risparmiatori, di quelli che non sono assolutamente rimasti coinvolti in queste situazioni, ha portato però molti risparmiatori a fare un punto della situazione del proprio denaro investito in strumenti simili a questi. Molti hanno scoperto effettivamente che si tratta di obbligazioni bancarie magari subordinate, difficilmente liquidabili, e di conseguenza appunto anche questo è un tema delicato, magari sul quale torneremo più avanti. Ci siamo già andati anche con i nostri consulenti finanziari in puntate precedenti. Oggi facciamo un punto della situazione invece sui risparmiatori traditi da queste quattro situazioni. Saluto e ringrazio per essere ritornato con noi un avvocato che non si è molto riposato in queste vacanze, l'avvocato dell'Unione Nazionale Consumatori da Senigallia, Corrado Canafogli. Avvocato, buongiorno e ben ritrovato a Cuore Denari. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Siccome lui va un sacco anche in televisione, in questo periodo lo chiamano ovunque, quindi si confonde. È un delirio ormai. Esatto, ha trovato il termine giusto per definire. Grazie a voi. Dicevo, l'avvocato Canafogli è in prima linea, soprattutto per il caso Banca Marche, che vede coinvolti obbligazionisti ed azionisti della Banca Marchigiana, che ha erogato crediti e prestiti a piene mani negli ultimi anni fino al dissesto. Poi la risoluzione della banca, c'è stata la creazione della Bad Bank con i crediti irrecuperabili e le posizioni dei risparmiatori, la nuova banca. Avvocato, le chiedo subito, ad oggi quanti risparmiatori si sono rivolti a lei, a voi? E avete tracciato anche un profilo più preciso di chi sono, che portafoglio medio avevano investito? Perché ai fini del funzionamento del fondo di solidarietà istituito dalla legge di stabilità, anche questo aspetto è molto rilevante. Quindi quanto avevano investito e se tutto il loro risparmio era concentrato magari in una o poche obbligazioni subordinate di queste banche? Allora, se parliamo di obbligazionisti, siamo intorno a un centinaio, 150 di Banca Marche. Se parliamo di azionisti e obbligazionisti, perché in realtà questa distinzione che a noi non piace, fatta dal governo un po' per divide d'impera, e questo non va bene, perché in realtà sono tutti risparmiatori truffati da questo sistema. Sono oltre 3.000 le persone che si sono rivolte alla Nazionale Consumatori. E un profilo vero e proprio noi non riusciamo a darlo, vi spiego per quale motivo, perché in realtà, ed è qui che noi stiamo praticamente lottando e contestiamo l'impostazione data dal governo, non è possibile dire che chi ha sotto i 100.000 euro o sopra i 100.000 euro non è un piccolo risparmiatore. Qui in realtà è una persona, un risparmiatore che si è avvicinato, che è entrato dentro la banca fidandosi e ha acquisito dei titoli, azioni o delle obbligazioni, spesso e volentieri per quanto riguarda le obbligazioni, neanche sapendo non solo di che cosa si trattava, ma neanche sapendo che erano obbligazioni subordinate. Vi porto un piccolo esempio. All'interno di quei dei documenti di acquisto noi vediamo dove c'è scritto obbligazioni sulla sinistra e sulla destra abbiamo trovato il codice che identifica l'obbligazione, la qualifica come subordinata. Che cosa vuol dire questo? Che chi si è avvicinato è una persona, tra virgolette, sprovveduta, cioè non conosceva il sistema, tutti gli aspetti giuridici di quello che andava a acquistare. Quindi il vero, diciamo, se noi vogliamo dare un profilo, è di una persona totalmente ignara, totalmente sprovveduta, che si è avvicinata e più delle volte ha investito i propri risparmi, tutti i propri risparmi in un qualcosa che poi è vanificato, che è stato portato via. Questo però insomma il governo dice queste situazioni vanno in ogni caso, siccome la dotazione del fondo è quella che è, probabilmente non verrà alzata, le situazioni vanno valutate caso per caso, perché i casi proprio di tradimento più clamorosi possono avere il diritto di essere risarciti integralmente, quindi si dovrà stilare la graduatoria praticamente dei risparmiatori. Io sulla base di quello che ha detto l'avvocato Canafoglia vorrei subito sentire Stefano dalla provincia di Pesaro, perché è esattamente nel profilo che l'avvocato Carafogli appunto ci identificava. Stefano, buongiorno. Lei, io la sparo subito la cifra per raccontare già, anticipare la sua storia. 200.000 euro di obbligazioni subordinate aveva in portafoglio. Sì, mi è presente che erano i risparmi di una vita di mio padre e in parte anche di mia madre. Mm-hmm. Per cui quello che diceva l'avvocato, insomma, corrisponde un po' al nostro profilo, anche il profilo di rischio. Se lei mi permette, le dico subito cosa c'è scritto nella MIFID. Mi sente? Sì, sì, la sentiamo, Stefano. Ecco, per seguire una prudente rivalutazione dei capitali con assunzione di un rischio basso. Ecco, mio padre non è che è entrato in un casinò o in una farmacia. Sa perché le dico farmacia? Sì. Perché chi oggi entra in farmacia con una ricetta che prescrive un farmaco quantomeno sicuro e gli viene rifilato un farmaco altamente tossico con effetti collaterali disastrosi va punito. Quindi questa gente, e mi riferisco alle banche, quindi in questo caso al farmacista, devono smettere di fare questo lavoro, diciamo, come dire, odioso. Questi non conoscono i limiti della vergogna, secondo me. Per cui quello che dico io, ecco, in base a quello che sento dire, il rimborso va fatto totale, non parziale, tenendo conto, come diceva l'avvocato, delle certo. cifre più per o questo meno investimento alte. Stefano, era stato sottoscritto da suo papà, giusto, che non aveva idea dello strumento finanziario che è andato a prendere. All'epoca 76 anni, per cui gli hanno consigliato, anche perché le obbligazioni ordinarie che lui voleva acquistare erano terminate e lo hanno quasi raggirato, perché lo hanno invogliato con questo 0,20 di interesse in più. a prendere certo. queste obbligazioni Pazzesco. Subordinate di cui non conoscevamo neanche i rischi, perché certo. a tutt'oggi... Ma sa Stefano, è un po' come il concetto dello spread. Fino a quando non è esplosa l'estate dello spread, nessuno aveva mai sentito parlare di quel concetto. Adesso tutti cominceremo a masticare invece il concetto dell'obbligazione subordinata. Stefano, le faccio tutto il nostro più grande in bocca al lupo, so che in buone mani, in quelle dell'avvocato Canafoglia, speriamo appunto che lei possa essere suo papà, una tra le persone appunto di quelle che riescono a riottenere tutto quello che hanno investito, quindi ad avere una posizione alta nella triste graduatoria che Cantone dovrà stilare. Nicola, cosa volevi, cosa ti suggeriva questo caso? Volevo dire che il termine ristoro mi fa venire in mente l'idea del ristorante, ma questo è un ristorante dal quale si esce con molta fame, perché... su 350 milioni di bond subordinati in mano ai risparmiatori retail, rimborsarne totalmente o parzialmente soltanto per 100 significa in realtà lasciare fuori una vastissima platea di sottoscrittori, e quest'ultimo caso dimostra alcune cose. Dimostra innanzitutto che sono state fatte delle operazioni riguardanti la profilatura MiFID, l'appropriatezza e l'adeguatezza dei titoli che sono stati collocati, che sono sicuramente da andare a controllare una per una, perché in questo, come in tanti altri casi, a me stanno arrivando email da lettori e da risparmiatori, la profilatura MiFID è stata modificata proprio esatto, per piazzare questi bond. Nel corso bond. Degli ultimi periodi, peraltro, quando si cominciava a percepire nell'aria che era difficile esatto. poter rimborsare queste obbligazioni. E poi mi fa venire in mente che la proposta del Sole 24 Ore, che è stata fatta il 30 dicembre, di un bugiardino, come è stato chiamato dal nostro direttore Roberto Napoletano, di due pagine, che contenga tutte le indicazioni semplici, chiare e trasparenti per andare a sottoscrivere qualsiasi titolo di tipo di prodotto finanziario, sia estremamente appropriata, visto che qui si è parlato di farmacia, il bugiardino è quel foglio che accompagna ovviamente i prodotti i farmaceutici. Medicinali. Cuore e denari. Eccoci ritrovati di nuovo in diretta, ritornano i nostri giovedì dedicati alle tematiche del risparmio e dell'investimento. Vogliamo ricordare come si chiama la nostra rubrica, Carmelo, se ce la facciamo, altrimenti direi che cantiamo, vado avanti. Noi ce l'abbiamo. Investire informati. E invece dalle conseguenze del famoso decreto salvabanche del 22 novembre abbiamo scoperto che in Italia ci sono ancora molti investitori non informati ma disinformati sulla tipologia di prodotto che avevano in portafoglio, nella fattispecie obbligazioni subordinate. Abbiamo fatto una marea di puntate su questo argomento, ci sembrava interessante anche riprendere l'anno con un punto della situazione di queste certo. vittime di questo provvedimento. Molti obbligazionisti, molti azionisti, stiamo, come dire, tristemente cercando di capire come l'autorità anticorruzione farà la graduatoria di chi ha il diritto ad un indennizzo integrale di quello che ha perso o solo parziale. E poi dicevamo appunto domani un appuntamento importante. Siamo partiti dal caso, ripartiamo dal caso più critico, che forse è quello di Arezzo. La nuova banca Etruria si è detta nei giorni scorsi disponibile ad un incontro faccia a faccia con i rappresentanti del comitato vittime del salvabanche. Oggi si sarebbe dovuto svolgere ad Arezzo questo incontro fra la portavoce del comitato vittime Letizia Giorgianni e Roberto Nicastro per valutare delle soluzioni, delle proposte condivise per dare ristoro a tutti coloro che hanno perso del denaro. Apprendiamo oggi dai giornali che questo incontro è stato allargato alle vittime di tutte le quattro situazioni e l'incontro si svolgerà a Roma. Letizia Giorgianni, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. È una novità che vi soddisfa? Siete soddisfatti di questo incontro allargato che si svolge domani a Roma? E con che proposte andate di nuovo ad incontrare Roberto Nicastro? Esatto, noi siamo molto fiduciosi. Noi speriamo che questo... Allora Letizia, non sentiamo niente, ripristiniamo immediatamente la telefonata perché noi vorremmo darvi voce nella maniera più chiara possibile, per cui adesso al volo chiudiamo e ripeschiamo la telefonata. L'incontro di Nicastro, Nicola, come lo valuti? Ma secondo me è un'apertura interessante. A questa apertura però bisognerà vedere quali fatti concreti seguiranno. Ora ci sono altre possibilità di rimborso per i risparmiatori che hanno perso denaro nelle quattro banche risolte, che non sono legate soltanto al fondo da 100 milioni stabilito dalla legge di stabilità. Ci sono possibilità che sono legate alle azioni di responsabilità che le New Bank, anzi che le banche prima della risoluzione avevano mosso nei confronti dei vecchi amministratori. Si parla di cifre di circa 400 milioni. Però bisogna vedere se queste cifre andranno nelle banche in liquidazione o saranno destinate a chi ha perso denaro. C'è poi un'altra proposta che io trovo molto interessante e che ha lanciato su Plus 24 il 19 dicembre Giulio Romani, che è segretario generale della FIBA CISL, uno dei sindacati dei bancari, che dice sostanzialmente: cari Nubank, visto che voi farete sicuramente dei grossi risultati anche attraverso la vendita a dei nuovi azionisti, perché non emettete dei titoli privi di diritti di voto ma con diritti patrimoniali, che siano erogati gratuitamente a coloro che hanno perso denaro e che rimborsino progressivamente, a partire dalle situazioni meno rischiose fino ad arrivare alle azioni, tutti coloro che hanno perso dei soldi? Avvocato Canafoglia, lei che cosa ne dice di queste soluzioni ipotetiche che si vanno delineando, delle quali si va discutendo? Peraltro, nelle ultime settimane, in un quotidiano era stata data anche molta enfasi ad una notizia che era stata diffusa da alcune associazioni dei consumatori, secondo le quali ad alcune categorie di risparmiatori sarebbero arrivati degli anticipi degli indennizi in attesa che si mettesse in moto la procedura arbitrale che fa capo all'autorità anticorruzione. Avvocato Canafoglia, ci conferma che tutto ciò non corrisponde a verità? Il governo ha smentito chiaramente, nessuno avrà nessun tipo di anticipo di risarcimento. Su questo possiamo dire che la situazione è pacifica. Sono d'accordo ed è verissimo, ovvero sia, basta con tutte queste ridda di voci, chiacchiere che vengono buttate là. In realtà non ci sono corsie preferenziali, partono tutti sulla stessa linea. Vorrei agganciarmi a quello che diceva il dottor Borri, ovvero sia, Borri, attenzione, gli incontri con Nicastro vanno benissimo. Ma qui chi manca in realtà in questo momento è il ruolo della politica, parlo del governo, perché il problema dove sta? Nicastro come penserà di poter rimborsare o ristorare? Io sono d'accordo con quello che dice il dottor Borri sul ristoro, non piace a me quel termine, ma come penseranno di risarcire i danni a chi è stato defraudato, depauperato del proprio credito? Perché il problema è, come dice anche Romani, in un incontro che siamo sentiti e abbiamo praticamente condiviso la sua proposta, è questa: ci sono i soldi per risarcire tutti quanti in quei famosi crediti ritenuti inesigibili che vengono ceduti, vogliono essere ceduti al 17%. Bene, siamo convinti, e lo diciamo senza ombra di dubbio, che quei crediti cosiddetti inesigibili possono essere recuperati a somme ben superiori. E su quello spread, dal 17% a quello che verrà in più recuperato, lì c'è il denaro per risarcire azionisti e obbligazionisti di tutte le banche. Quindi lei dice è una questione di natura politica, una precisa scelta di natura politica. È una volontà, mi permetta di dire questa cosa, ovvero sia, il problema dove sta? Prima fase, ladri, incompetenti, chi più ne ha più ne metta, che hanno massacrato queste quattro banche. Bene. Seconda fase, che è quella forse più assurda, che invece di dire, bene signori, mettiamo in chiaro la situazione, quindi eliminiamo questo famoso articolo 5 col segreto d'ufficio che impedisce a tutti di capire... Che è la sua grande battaglia, l'abbiamo sentita più volte. Sì, ecco, liberiamo, facciamo capire a tutti che cosa sta succedendo, ma diamo la possibilità a chi è titolare di un'azione, quindi è proprietario di quella banca, di poter fruire di che cosa? Di quegli uffici che sono i recuperi credito all'interno di quelle banche che andavano a recuperare il denaro. E quindi non vendiamolo a terzi, non consentiamo a terze persone di sciacallare, di fare azioni di sciacallaggio sulle disgrazie. Mi spiego, il 17%, i crediti venduti al 17% verranno venduti a chi giustamente vuol fare business, ma purtroppo in una situazione come questa occorre chiarezza e occorre che quel denaro resti all'interno delle banche, cioè quello che viene recuperato, in parte restituito a chi ha anticipato il denaro, vedi le grandi banche, per portare andare avanti, ma in parte va restituito ai risparmiatori, azionisti e obbligazionisti. Sì, aspetti lì, avvocato Nicola. Sì, io sono assolutamente d'accordo con l'avvocato. Sottolineo che in passato c'è stato un esempio di una bad bank privata di grande successo. La società gestione attivi del Banco di Napoli, che è stata costituita dopo la cessione della Good Bank Banco di Napoli all'Istituto San Paolo, fu acquirente di circa 6 miliardi e mezzo di euro di sofferenze bancarie del vecchio Banco di Napoli, e negli anni, in 11 anni, riuscì a recuperarne oltre il 90%. Questo significa che se quei titoli erano stati inizialmente svalutati, quelli venduti alla società gestione attivi di circa un terzo, questo significa che se si applicassero delle percentuali simili a questi valori che sono stati conferiti alla Bad Bank, che è nata dalle sofferenze e che concentra le sofferenze delle quattro banche risolte, su 8 miliardi e mezzo ci sarebbe la possibilità di fare degli utili stratosferici. Ora, è vero che l'Italia non è più quella dei tempi delle sofferenze del Banco di Napoli, forse è irrealistico pensare di riuscire a recuperare il 90% di 8 miliardi e mezzo di euro, ma sicuramente molto di più del 17,7%. Molto di più dello zero si può fare. Esatto. Ecco. Ora si tratta di vedere chi si intascherà questa enorme differenza, sulla quale c'è la possibilità di costruire grandissimi, grandissimi utili. Io sono d'accordo che non è moralmente accettabile che un operatore privato, per quanto titolato a fare business, acquisti quei titoli e realizzi delle plusvalenze, mentre i risparmiatori che hanno conferito in buona fede i loro risparmi vengono lasciati a bocca asciutta. Letizia Giorgiani, ci siamo adesso. Letizia, buongiorno. Sì. Mi ottimo, sentite? Adesso molto meglio, grazie. Allora, con che spirito andate domani a Roma ad incontrare Roberto Nicastro? Letizia Giorgiani, lo ricordo, è portavoce del Comitato Vittime Salvabanche, in particolar modo della Popolare dell'Etruria. Allora, condivido la posizione che è stata espressa adesso, anche se purtroppo non vi ho potuto sentire benissimo perché abbiamo qui un po' di problemi di connessione. Stamani eravamo ad Arezzo proprio perché oggi ci sarebbe dovuto stare questo incontro che giustamente ieri sera ci è stato comunicato che sarebbe saltato, un incontro allargato domani. Con che spirito? Il nostro è uno spirito che comunque da una parte positivo, perché speriamo che ci sia l'inizio di un dialogo, del resto non sappiamo ciò che le nuove banche potranno prometterci o potranno fare. Vero è che noi cercheremo in tutte le sedi che riteniamo opportune di ottenere questo ristoro per gli investitori coinvolti in questa vicenda. Noi domani andremo a sentire se ci verrà fatta una proposta, quindi ci sarà più che altro la volontà nostra di capire, di ascoltar loro in primis. Potrebbe essere l'apertura di un dialogo. Se ci verrà chiesto delle soluzioni, cercheremo di analizzarle, ma questo dipende molto da ciò che ci verrà detto e da ciò che ci verrà. E questo, Letizia, sì, no, è il filone Nicastro. Il filone Cantone, invece, il filone della procedura arbitrale che dovrà mettere in piedi l'autorità anticorruzione, come lo vedete, come lo valutate, come cercherete di far sentire la vostra voce anche su questo fronte? Fronte, noi non lo valutiamo in una maniera positiva, perché già noi sappiamo i parametri di questo arbitrato, che mi sembra che siano anche abbastanza confusi. Dopo li ribadiamo, però non ci sono i provvedimenti attuativi dell'iniziativa, per cui ecco, viaggiamo ancora un po'. Tra l'altro i tempi slittano di un bel po', perché appunto già parliamo di febbraio. Noi, quando siamo andati in delegazione con Padoan, ci aveva appunto detto che i tempi ovviamente dell'arbitrato sarebbero stati ovviamente molto più veloci di quelli di una magistratura ordinaria, insomma, ovviamente si riferiva alle cause. In realtà i tempi saranno lunghi, ci sembra, e voglio ricordare, come appunto presidente di Vittime del Salvabanche, che all'interno della nostra associazione ci siamo costituiti in questa maniera per avere più forza, per avere più voce. Ci sono storie, veramente loro le hanno individuate forse in appena un migliaio, a noi non sono dati che ci risultano, ma ci sono persone che avevano investito in queste obbligazioni in visione perché andavano in pensione, che comunque magari con una pensione da fame, certo, loro pensavano di poter contare su questi soldi. Quindi qui c'è delle situazioni veramente di emergenza. Io non ritengo che forse il governo abbia ben valutato credo le conseguenze di questo decreto. Noi la pensiamo in questa maniera. No, vabbè, ma su questo ci è sembrato chiaro sin dall'inizio, Letizia, che effettivamente un po' le conseguenze non erano state sufficientemente prese in considerazione in termini anticipati. Non si poteva probabilmente, però effettivamente di come qualche persona potesse trovarsi nella disperazione totale, forse non a nessuno poteva apparire chiaro, diciamo, nelle giornate in quel famoso weekend del 22 novembre. Letizia, noi ti salutiamo adesso, le do del tu, perché ormai la sento frequentemente. Certo. Ci sentiamo nei prossimi giorni, magari per valutare appunto con Nicastro come andrà domani. Anche quello che è venuto fuori. Esattamente. Cuore e denari. Allora, le conseguenze del decreto salvabanche del 22-23 novembre, il punto della situazione per i risparmiatori traditi e la risoluzione di queste quattro banche che erano in procinto, Nicola, di fare crack, parliamoci chiaro, e magari lo avrebbero fatto se fossero già state in vigore le regole del bail-in. No, no, tentenni un po', non sei d'accordo con me con questa visione così drastica. Con le regole del bail-in la risoluzione sarebbe stata molto più dolorosa per altre categorie, ad esempio i titolari di obbligazioni ordinarie. Però io non sono così convinto che le banche sarebbero andate necessariamente in crack a mesi, come è stato sostenuto. Io penso che ci sia stata, come dire, una convergenza di interessi per far emergere una situazione che forse si sarebbe dovuta affrontare molto tempo prima che non il 22 novembre scorso. Vabbè, detto questo, ormai commentare. Detto questo, è una questione di tempi. Esatto, tempi. A proposito, cosa volevi dire prima, quando interveniva Letizia Giorgiani, sulla procedura arbitrale dell'ANAC? Perché ancora non abbiamo dettagli, però qualche cosina si sa. Per esempio, l'aspetto che se un risparmiatore aveva concentrato tutte il proprio portafoglio investito in un'unica obbligazione subordinata, quello avrà certamente un diritto molto alto di essere risarcito integralmente, anche se appunto gli aspetti tecnici non sappiamo ancora nulla, perché non c'è nulla. Io volevo dire due cose. La prima sui tempi. In realtà questa partita si gioca su tre tavoli. Il tavolo della politica con il governo per l'intervento attraverso il fondo di solidarietà gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. E lì ci sono i decreti attuativi da emanare e ci sono le regole del fondo di solidarietà da stabilire per il cosiddetto ristoro. Il secondo tavolo è il tavolo istituzionale con la Banca d'Italia. La Banca d'Italia governa sostanzialmente la risoluzione attraverso la sua unità, e anche lì ci sono dei tempi, perché la risoluzione continuerà fino a quando la bad bank non avrà ceduto o riscosso tutto quello che potrà dei valori che le sono stati conferiti. Poi però c'è un altro tavolo, che è quello con Nicastro e le quattro nuove banche. Allora, qui c'è un ingorgo di tempi che si sovrappongono, scorrono a velocità diverse, eppure sono tempi che sono tutti rilevanti. Ad esempio, se si vanno a cedere alle new bank, a nuove acquirenti, in tempi molto rapidi, e non sono ancora state definite prima le regole per rimborsare eventualmente da parte delle new bank e coloro che hanno perso dei soldi, non è detto che chi compra le nuove banche sia interessato poi a riconoscere un ritorno a quindi dovrebbe essere magari una condizione della cessione della vendita, secondo me, da porre prima. Tu vuoi questo asset, però sappi che devi anche impegnarti a rimborsare queste quindi persone. I tempi della trattativa con Nicastro sono fondamentali, perché se questi rimborsi non vengono stabiliti prima della cessione, chi compra può anche dire: signori, io ho comprato ad altre condizioni, cosa non avevamo stabilito niente in questo senso. Ottimo, bella considerazione, avvocato Canafoglia. Io direi la condivido e la sottolineo in pieno. Perché poi in tutto questo il problema è la chiarezza, nel senso cosa si va a vendere, quali sono le garanzie, perché io ho l'impressione che qui ci sia tanta confusione da parte dei vari soggetti istituzionali. Per esempio, parlavamo dell'arbitrato, Cantone è una persona stimabilissima, ma pongo questo problema: l'arbitrato è stato spinto e orientato esclusivamente a far condividere due figure, l'obbligazionista da una parte, il dipendente con la banca dall'altra. In realtà in questa figura, in questa situazione, manca una figura fondamentale, Banca d'Italia, perché Banca d'Italia non può pensare di uscire indenne da questa situazione. E allora l'arbitrato sì, va bene nei confronti della banca per i 100 milioni, ma vogliamo provare a fare un arbitrato o trovare una soluzione per capire se Banca d'Italia in queste quattro banche, per i ruoli che ha svolto, per le situazioni che ci sono state, noi stiamo arrivando, stanno arrivando. Sia stata un po' light e poco incisiva, diciamo. Da questa situazione. Tra l'altro gestisce Banca d'Italia tutte le azioni nei confronti degli ex vecchi, dicendo. Ma insomma, non è possibile pensare che la guerra, passatemi questa parola, venga rivolta verso il basso. Vogliamo guardare verso l'alto, perché in realtà come dice Borzi, questo è il problema. Senta, Canafoglia, nella procedura arbitrale che Raffaele Cantone metterà in piedi e quant'altro, secondo lei che ruolo avranno le associazioni dei consumatori? Perché lei ci diceva prima, noi come UNC qui nelle Marche gestiamo almeno 3.000 posizioni, per cui avete tutto il titolo naturalmente per poter dire la vostra e stabilire se vi stanno bene anche i criteri di individuazione delle persone che devono essere risarcite e indennizzate integralmente o parzialmente. Secondo voi vi chiameranno, vi chiederanno qualcosa? Chiederete voi di essere interpellati in maniera molto concreta su questa procedura? Noi questo è uno dei prossimi passi che faremo, cioè è impossibile pensare che la piazza, solo la piazza in questo momento, le urla dalla piazza, dettino alcune iniziative tipo quella di Nicastro, positiva per carità, ma qui occorre un tavolo tecnico da parte degli soggetti istituzionali e dove il governo deve avere un ruolo tra virgolette di mediatore e dire: cari signori, venite tutti qua, portate le vostre proposte, ascoltate la base e non in base alle urla che uno deve fare purtroppo di fronte a una filiale, perché l'impressione che qui si ha che due sono le ipotesi: o c'è un po' di confusione determinata anche da una poca conoscenza, questa potrebbe essere un'ipotesi, oppure c'è invece una strategia precisa e questa è un'altra ipotesi. Di queste due situazioni occorre che il governo sgombri il campo da situazioni strane, da dubbi, anche perché questo in realtà nessuno lo dice, o meglio, è stato detto da tanti, questo è il banco di prova di quello che succederà da qui a un po' con altre banche che stanno in rampa di lancio, perché in realtà è questa. Condivido quello che dice Borzi, non è vero che le quattro banche, quantomeno Banca Marche non saltava, tant'è vero che i crediti inesigibili al 17% potevano essere comprati a molto di più, i soldi c'erano, e che in realtà l'impressione che si ha, che vi sia una strategia a monte di chiudere, di stringere, e allora ecco capiamo le popolari. Di cominciare a dare anche qualche lezione, quasi mi verrebbe in mente, un po' come era successo con Lehman Brothers. Però che è ti un grosso rischio e sono d'accordo con l'avvocato per due motivi. Innanzitutto perché se questo parametro del 17,7% di valutazione delle sofferenze fosse applicato a tutto il sistema, avremmo un cosiddetto shortfall, cioè una mancanza di capitale in parecchie banche italiane, tra cui alcune molto grandi. E porre un valore di questo tipo alla valutazione delle sofferenze di quattro banche, ancorché risolte, come esempio per la valutazione delle sofferenze del sistema, può essere, come dire, un autogol di proporzioni colossali e dannosissime per tutto il sistema. E questa è la prima cosa che voglio dire. La seconda cosa che voglio dire è che andiamo in una situazione in cui sarà richiesto a chi è dentro gli istituti di prendersi carico della responsabilità di valutare i propri investimenti. Attenzione, attenzione, perché negli istituti italiani non ci sono soltanto investitori piccoli, risparmiatori italiani. Le banche italiane sono ormai partecipate in maniera molto rilevante da grandi investitori internazionali. Far passare l'idea, ed è rischiosissimo, che il mondo bancario italiano possa dall'oggi al domani trovarsi con altre situazioni di difficoltà che a tutt'oggi non sono prevedibili, lo dico chiaramente, rischia di causare un danno sistemico. Non a caso il mercato dei subordinati è già stato messo KO da questo intervento a gamba tesa all'ultimo momento. Detto questo, allora noi adesso delineare questi scenari ipotetici interessa relativamente, la situazione è talmente fluida, ci interessa soprattutto focalizzare l'attenzione sulle persone che vogliono rivedere i loro soldi, perché nel giro di una domenica pomeriggio se li sono trovati completamente azzerati. Sentirei prima dei saluti velocemente un altro ascoltatore della provincia di Ancona, Paolo, azionista di Banca Marche. Paolo, buongiorno. Paolo, ci sente? Voi mi sentite? Sì, adesso sì. Buongiorno. Ci racconti? Ma racconto, ho sentito finalmente una trasmissione completa che ha espresso tutte le nostre preoccupazioni, tutte le nostre paure. Fondamentalmente a noi interessa essere risarciti, risarciti non da un fondo statale pagato poi da tutti i contribuenti, ma soprattutto essere risarciti da chi ha causato questa cosa. In primis non è stata citata la magistratura, io spero che venga lasciata libera, ma soprattutto sia veloce nell'intervenire. È vero, perché c'è anche tutto un filone giudiziario, giustamente. Perché chi deve pagare per primo è chi ha causato tutto questo, quindi tutti i vecchi amministratori. Chi ha vigilato, chi non ha vigilato, quindi Banca d'Italia, Consob, che ha permesso anche aumenti di capitale con prospetti falsi, e lo sapevano, secondo me lo sapevano, quindi dovevano intervenire molto prima di incentivare gli azionisti, che sono stati citati pochissimo, a fare aumenti di capitale per ricapitalizzare un istituto che probabilmente, come noi abbiamo già detto più volte anche in assemblea, era già in crisi, ma nessuno ci ha mai ascoltato. Quindi è una cosa che bisogna assolutamente intervenire, e la magistratura deve assolutamente avere i tempi giusti per poterci permettere di avere anche delle persone che per prima hanno derubato il sistema di essere risarciti. E poi anche la nuova banca, le nuove banche, no, oltre alla Bad Bank è stata ampiamente citata. La nuova banca che verrà frazionata, verrà venduta, probabilmente si creeranno degli utili. Perché non ci hanno fatto partecipare anche a noi azionisti? Noi non vogliamo essere leader, noi siamo azionisti che, per quanto molto risparmiatori, quello che vogliamo, avevamo delle azioni che sono diverse dalle obbligazioni. È inutile nascondersi dietro un dito. Per cui bisogna che noi vogliamo partecipare a questa cosa, dobbiamo partecipare certo. a questa cosa. Allora, sono certa, Paolo, perché... che sì, grazie. No, devo salutarla brutalmente perché abbiamo 20 secondi prima della chiusura, poi ci tagliano. Probabilmente Roberto Nicastro di questo è del tutto consapevole, ma forse non ha ben chiara la modalità con cui poter dar ragione anche a Paolo, azionista. 150.000 euro di azioni volatilizzate. Tra l'altro, devono essere consapevoli anche gli amministratori straordinari nominati da Banca d'Italia, che nei mesi prima del dissesto si sono lasciati andare a dichiarazioni tranquillizzanti anche poche settimane prima della risoluzione. Allora, abbiamo terminato. Avvocato Canafoglia, grazie per essere stato con noi, ci risentiremo presto, suppongo. Grazie a voi e buona giornata. Buon lavoro, grazie Nicola, grazie, buon lavoro anche a te. Domani ci tornate con Plus sabato su questi argomenti. Sabato torniamo di nuovo con Plus su questi argomenti e torniamo anche sul problema delle materie prime dopo il crollo del petrolio. Esattamente. E noi torniamo invece domani a Cuore Denari. Alle 10:30 qui, insieme a Deborah Anico. A domani.